Dopo la terribile giornata di ieri, 11 marzo, con quel che è accaduto a Madrid, la radice ancora non è assolutamente chiara di quel terribile attentato, Rosa Rita Catani, da Amman in Giordania, ci illumina di una vicenda forse molto piccola, ma anche molto drammatica, in qualche modo persino commovente, la storia di Mahmoud Abdullah Yonis, un bambino di soli 7 anni che è stato centrato, un bambino palestinese, centrato da un cecchino israeliano su un tetto, mentre raccogliendo un sasso per terra, lo stava per tirare verso un carro armato dell'occupazione israeliana nei territori palestinesi. Una vicenda piccola, per certi versi drammatici, ma che mette in luce il rapporto di Amnesty International recentemente pubblicato, dove descrive che più di 250 bambini palestinesi e ben 72 israeliani sono morti solamente in un anno, in questa guerra dura e cattiva che c'è tra Israele e palestinesi nei territori occupati. Uccidono il futuro, bambini nel mirino, questo è il titolo del rapporto che denuncia un'indifferenza assoluta manifestata dalle forze di difesa israeliane e in alcuni casi anche dai gruppi armati palestinesi per la vita dei bambini. L'Organizzazione per i diritti umani, Amnesty, punta il dito contro l'impunità di cui godono gli assassini, chiede celerità e fermezza nelle indagini sulla morte di ogni bambino. Il 70% delle piccole vittime israeliane è vittima delle gravissime conseguenze degli attentati suicidi provocati dai gruppi più oltranzisti della resistenza palestinese. I bambini palestinesi vengono invece uccisi solo per aver lanciato delle pietre contro i carri armati dell'occupazione israeliana. Nessuno finora ha ancora condannato la politica dei missili lanciati dagli elicotteri Apache nelle città dei territori occupati che provocano centinaia di morti e tanti, tanti bambini. Ulteriori approfondimenti naturalmente su Reporter Associati e su Amisnet Radio da Roberto Di Nunzio.